Radio 24 Reportage. Passione senza vittorie. Il popolo del rugby al Sei Nazioni di Dario Ricci. Passione, birra, abbracci, cori, applausi, inni nazionali e poi 80 minuti più recupero di placcaggi, mischie, mete, calci. Alla fine sconfitta, l'ennesima, e ancora applausi e rimpianti. Cronaca di un'ordinaria giornata del rugby italiano, quella vissuta sabato 5 febbraio al Flaminio di Roma. Lottano, sbuffano, soffrono gli azzurri e con loro i 33.000 dello stadio romano. Alla fine però la vittoria sfugge ancora, beffarda, per pochi istanti, pochi centimetri, dettagli impercettibili eppure decisivi. E il popolo del rugby allora come reagisce? Ce la farà ancora una volta a mandar giù l'ennesima delusione? Oppure, a forza di vittorie solo sfiorate, la palla ovale italiana prima o poi si sgonfierà? E allora andiamo a sentirle le parole di questo popolo del rugby, nel racconto di una giornata che, nel bene o nel male, è già una pagina della storia della palla ovale italiana. Tutte le strade della palla ovale portano a Roma, Roma capitale del rugby, dove il popolo del rugby italiano si dà appuntamento per il Sei Nazioni. Oggi l'esordio contro l'Irlanda. Beh, andiamo a sentirle le voci di questo popolo del rugby, sperando che portino bene anche agli azzurri. Stadio Flaminio, che è il tempio della palla ovale italiana e soprattutto la casa della nazionale azzurra, che affronta questo Sei Nazioni. E allora andiamo a sentirla, la musica del popolo del rugby, la sua voce e soprattutto le sue aspettative per questo Sei Nazioni 2011. Roma caput rugby, verrebbe da dire, a vedere lo sventolio di tricolori attorno allo stadio Flaminio. Di questi tempi meglio non darlo per scontato. Ma l'amore per la palla ovale, con i riflessi verde e biancorossi, fa fare piccole e grandi pazzie. Sentite un po' questi tifosi calabresi. Da Reggio Calabria a Roma per questo Sei Nazioni vuol dire proprio che del rugby ci si innamora, è colpo di fulmine a prima vista, eh? Sì, è un colpo di fulmine. Quando inizi a giocare pensi che non ti piace, poi man mano gli allenamenti capisci che è veramente il tuo sport. Senti, parecchie botte, come dopo il primo allenamento come si torna a casa? Con l'idea, dice, quasi quasi me ne stavo a vedere la partita a TV. Quasi quasi rimanevo a casa, però dopo i sacrifici, dopo le botte capisci la vera essenza di questo sport. Tutti con le parrucche tricolori, ma questa volta ce la facciamo, perché qua si viene, si tifa, si mangia il panino, però i punti se ne vedono pochi e vittorie poche. Vabbè dai, anzi è già una cosa provare a vincere. Sono di un livello superiore, però noi nemmeno scherziamo. Siamo migliorati in questi ultimi anni e speriamo sempre di arrivare a risultati migliori. Dove si può si arriva. E sentite, avete paura che magari a forza di sconfitte questo patrimonio di passione, di emozione possa andare perduto? No, non penso, perché lo spirito, anzi, in Italia sta crescendo rispetto a prima. Per esempio pure giù al sud, che prima a scuola di rugby se ne vedevano raramente, ora si stanno moltiplicando grazie anche agli scontri con la Sicilia. Movimento sempre in sviluppo, diciamo. Credo che i tesserati, noi per quanto parla la Calabria, siano aumentati a dismisura, come in Sicilia e in tutto il sud. Sentite, campione preferito di questa squadra azzurra, il vostro idolo, di chi avete il poster in camera, dai? Paris. Paris. Paris. Però anche questi irlandesi meritano rispetto. Di chi vorreste attaccarvi il poster in camera? O'Driscoll. Italia unita nel segno del rugby, quindi. Se è vero che c'è chi arriva da Reggio Calabria, ma anche chi sbarca nella capitale da molto, molto più a nord. Da Trieste a Roma per il Sei Nazioni, quanti siete? Siamo 40 circa. Siete una società, una squadra? Siamo una squadra categoria propaganda solamente. Allora, propaganda, eccoli qua, spiegati perché tutti questi ragazzi, che età avete, quanti anni avete? Io 10 anni. Io 8. E 9. Bene, tu? 10. Allora, tanta passione per il rugby, come nasce questa passione, ragazzi? Io ho provato a fare rugby, poi mi sono appassionato, poi ho iniziato ad andare a vedere le partite e allora... Così. Dai, un bel forza rugby di Trieste, tutti insieme! Rugby Trieste! Ura! Ura! Ura! Ura! A Allora, come va a finire oggi? Vince l'Italia! No. Sentite, ma qua a forza di incassare sconfitte, perché ne perdiamo tante, non è che c'è il rischio che poi questa passione viene meno, no? No! L'importante è divertirsi e andare a vedere uno sport che rimane ancora puro. E poi il popolo del rugby ha un'ampia quota rosa. Tante le donne, le ragazze, anche le bambine che hanno abbracciato la passione ovale, senza dar poi troppa importanza al risultato finale. Aspettiamo questa sfida con l'Irlanda, ci mangiamo il panino, speriamo fra poco di addentarci pure gli irlandesi. Eh beh, sì, direi di sì. Senti, tante ragazze anche appassionate di rugby, tu come l'hai scoperto questo tifo? Per caso, mi piace il terzo tempo. Direi che forse finora poi nel torneo pure la parte migliore, quella che ci riesce meglio a noi italiani, eh? Sì, direi di sì. No, ma dico tanta passione anche per i valori di questo sport, immagino, no? Correttezza, lealtà. Sì, in effetti preferisco di più questo rispetto alle partite di calcio, perché... Detta la frase effetto, però ti piacciono pure di più i giocatori, secondo me. Dai, diciamo la verità. No, fisicamente no. Devo essere sincero. Meglio i calciatori. No. Sì, meglio i calciatori. Però tornando a parlare seriamente, i valori di questo sport effettivamente sono importanti, no? Sì, mi piace molto il fatto che la tranquillità, il fatto che si possa vivere tranquillamente, insomma, lo stadio, che non ci sia violenza. Pure questi irlandesi simpatici, si beve parecchio con loro, eh? Non lo so, io con loro non ho bevuto con gli italiani. Tanto tifoso italiano col bicchiere di birra in mano. È finita però, purtroppo è finita. Vabbè, ma fra adesso si va a ricaricare, no? La giornata è lunga. Senti, giornata lunga, anche giornata di festa, no? Adesso non sappiamo come andrà a finire, a prescindere dal risultato, il popolo del rugby però a questi azzurri dimostra sempre tantissimo affetto. Se lo meritano. Perché in campo mettono proprio l'orgoglio e la voglia di vincere, insomma. Tanta voglia di vincere, però di vittorie se ne vedono poco. Avete paura che magari a forza di continuare così, magari questa attenzione, questo affetto possa venire meno? No, non credo proprio. Fino a quando ci metteranno la voglia nel campo non scenderà mai questo. Quindi amore in discussione? Fino alla fine amore per la squadra, sempre. E poi... quando ci avranno nel petto il tricolore, per noi saranno sempre supportati. Qui a Viale Tiziano per ora è il momento della musica, della birra e degli applausi per la Fantomatic Orchestra che accompagna le esibizioni degli azzurri, però fra poco sarà il momento di placcaggi, mete e mischie. Ore 15:30, alla musica del terzo tempo anticipato, una volta dentro lo stadio si sostituisce la solennità degli inni nazionali. Mano sul petto, boccale di birra nell'altra mano, si canta a squarciagola l'inno di Mameli, sperando davvero che stavolta l'Italia del rugby si desti e faccia la vittoria schiava del Flaminio. Beh, come è andata a finire ai noi anche stavolta lo sapete già tutti. Anzi, ve lo abbiamo raccontato proprio noi di Radio 24, dalle tribune del Flaminio, in quegli ultimi minuti in cui il sogno, prima di vederlo svanire, l'abbiamo davvero sfiorato con le dita. Luke McLean! È meta! Squadra del Flaminio su Luke McLean che ha concluso in meta, 76esimo di gioco, 11-10. Non è stato trasformato il calcio di Bergamasco, siamo sull'11-10, 11-10 per l'Italia. È arrivato il drop di O'Gara, Terlambe è andato a costruire le condizioni ideali all'altezza dei 22 metri per il drop di O'Gara che ha appunto trasformato. Allora Irlanda che torna avanti, Irlanda 13, Italia 11 quando mancano 2 minuti più recupero, è finita il Flaminio, Irlanda 13, Italia 11, per gli azzurri gli applausi del pubblico, del popolo del rugby italiano, ma ancora una volta chissà se batteranno. È già per l'Italia del rugby un'altra onorevole sconfitta, ma la passione resiste, anzi si trasforma in fede. Il popolo del rugby sa che, prima o poi, quella vittoria arriverà. Difficile con l'Inghilterra a Twickenham. Magari al prossimo appuntamento al Flaminio contro il Galles. Martin Castrogiovanni, uno dei leader dello spogliatoio azzurro, ringrazia i tifosi e dà appuntamento agli irlandesi ai mondiali, ad ottobre, in Nuova Zelanda. Potrebbe essere quella l'occasione buona per riscrivere la storia azzurra della palla ovale. Quella grinta in più ce l'hanno sempre data e oggi come oggi c'è sempre stata, perché fino alla fine abbiamo lottato e è sicuramente un vantaggio giocare a casa, perché si sente sicuramente dagli spalti quell'energia in più. Quello che posso dire, speriamo che loro avevano vinto questa e noi vinciamo il mondiale e siamo tutti contenti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.